24 mattino con Giulia Crivelli. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon 31 dicembre 2020. Cominciamo come sempre da Financial Times che ha una fotonotizia in prima pagina che è una scelta abbastanza insolita per Financial Times, che normalmente ha una fotonotizia che richiama un evento importante del giorno e un pezzo principale. Oggi le due cose coincidono perché la foto è quella di questo schermo diviso in cinque, dove si vede Xi Jinping, il presidente del Consiglio europeo Michel, la cancelliera tedesca Merkel, presidente della Francia Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e il titolo è l'Unione europea si avvicina alla Cina nonostante il rischio di un conflitto con la Casa Bianca di Joe Biden. Perché il tema, lo avrete sentito, è la firma di questa sorta di cornice entro la quale bisognerà disegnare degli accordi commerciali inediti, perché riguardano aree che finora erano precluse alle aziende europee, tipi di accordi e di presenza in Cina che erano preclusi alle aziende europee, e appunto tutti gli stati europei, quindi tra la Cina e gli stati europei. È un tema sicuramente molto importante, che si lega a quello geopolitico dei rapporti, soprattutto commerciali, tra Cina e Stati Uniti, gli Stati Uniti del presidente eletto Joe Biden, che si insedierà il 20 gennaio, e l'Unione Europea. Evolversi dei rapporti tra Cina e Unione e Stati Uniti è molto importante, perché tra le tante eredità che lascerà Donald Trump e che andranno sicuramente riconsiderate anche una volta, diciamo, tolte da quell'onda emotiva con la quale adesso, soprattutto in quest'ultima fase della sua presidenza, si giudica l'operato del presidente Donald Trump, perché lui fin dall'inizio è stato eletto anche i suoi programmi sul riequilibrio dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Ha ottenuto molti successi, perché tutti, chi più in modo trasparente, chi meno, erano d'accordo sul fatto che la Cina non giocasse sullo scacchiere internazionale, in particolare commerciale, secondo le regole degli altri. Ha ottenuto parecchio Donald Trump, ha dovuto anche ingoiare alcuni insuccessi, e vedremo appunto da qui, come sottolinea Financial Times, questa mossa che è da vedere anche in prospettiva, quando alla Casa Bianca ci sarà Joe Biden. La stessa foto la sceglie il Sole 24 Ore, che la mette al centro della sua prima pagina, con il titolo Cina, mercato più aperto all'Europa, e il reportage in questo caso di Beda Romano. L'apertura vera e propria, però, come potete immaginare, è sulla manovra, la manovra dei mille bonus e legge, ecco le novità per imprese e famiglie. Tra l'altro ieri c'è stata la prima parte di questo approfondimento sulla manovra, ne abbiamo parlato, 4 pagine, il secondo ci sarà sabato 2 gennaio, quando i quotidiani, e quindi anche il Sole 24 Ore, torneranno in edicola. Comunque di questo parleremo anche con il direttore del Sole 24 Ore e di Radio 24, Fabio Tamburini, alle 7.45. Intanto noi ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità. Ed ecco, rieccoci, ma gli auguri per finire questo 2020 comunque in tranquillità e in serenità non sono mai troppi, quindi ve li rifaccio. Eravamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, dicevamo a centro pagina la foto di che è quello schermo, perché naturalmente questo vertice per firmare questo accordo quadro, che andrà poi riempito di accordi più specifici, e naturalmente questo vertice è avvenuto via Zoom, quindi Xi Jinping, Michel, presidente del Consiglio europeo, Merkel, Macron e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Il titolo Cina, mercato più aperto all'Europa, il titolo principale sulla manovra, e poi dalla prima pagina vi segnalo anche una lunga intervista che poi trovate a pagina 9 a Matteo Renzi: non saremo complici di questo recovery plan per ora. Corriere della Sera: Conte avverte, ora basta ultimatum, avete sentito, impossibile, veramente, con tutta la buona volontà, sintetizzare una conferenza stampa di fine anno della lunghezza di quella di ieri di Conte, e il Corriere ci prova così, ora basta ultimatum, e perché il tema, lo avete sentito anche nel GR, se un partito lascia andrò in Parlamento. Vi segnalo dalla prima pagina due interviste, una al ministro della Salute Roberto Speranza, il titolo poi l'intervista di Monica Guerzoni, la trovate a pagina 9, il ritorno a scuola è la nostra priorità, e un'intervista al ministro dell'interno Luciana Lamorgese, e in questo caso di Fiorenza Sarzanini, pagina 15, controlli severi sui parti clandestini, i parti clandestini che potrebbero esserci tenersi stasera, clandestini perché come sapete in realtà c'è un coprifuoco e è permesso festeggiare la fine dell'anno soltanto in gruppi ristretti e senza poi uscire dopo una certa ora. In prima pagina anche oggi sul Corriere della Sera, come aveva fatto ieri, il delitto di Trento, l'uccisione, l'assassinio di Aghitu Gudeta, che era una rifugiata etiope ma era anche un'imprenditrice. L'assassino ha confessato, è un collaboratore del Ghana di 32 anni, lei ne avrebbe compiuti 43 domani. Il titolo subito sotto la fotonotizia che la ritrae sorridente con in mano un cesto con alcune delle verdure che coltivava, il titolo è «Ho preso il martello e l'ho colpita», ha confessato questo pastore. Il particolare ancora più inquietante oltre all'assassinio è la motivazione, pare fosse una questione di uno stipendio non pagato. E anche il fatto che ancora bisogna chiarire se c'è stata violenza sessuale e se c'è stata prima o dopo l'omicidio. È un femminicidio, anche se a me la parola non piace, però così ci capiamo, è un femminicidio e ancora una volta si dimostra che purtroppo per una questione proprio di come siamo fatti fisicamente, se un uomo nero, bianco, giallo, verde, rosso decide di uccidere una donna, nera, bianca, gialla, verde, rossa, ha la forza fisica per farlo. È vero nel 99,9% dei casi. Non si è evidentemente trattenuto dalla sua follia, dalla sua impeto omicida. Pare abbia anche detto di essersi pentito e che non lo rifarebbe. Comunque la cronaca di questi primi dettagli dell'indagine e della confessione avvenuta già nella notte subito dopo l'assassinata martedì mattina, e poi è stato arrestato e ha subito confessato, e i particolari di questa confessione li trovate su tutti i giornali, nel caso del Corriere della Sera Daphne Roat, Elisabetta Soglio a pagina 23. Con il Corriere della Sera oggi in edicola anche Io Donna, il settimanale, il cosiddetto magazine femminile. In copertina c'è l'attrice Vanessa Kirby che dice: il giudizio degli altri non mi disturba più. C'è anche un'intervista a Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea: le donne hanno poteri utili a tutti. E poi, per non farci mancare niente, l'oroscopo del 2021. Attenzione, io non sono dell'acquario, ma auguri a tutti quelli dell'acquario, perché l'oroscopo 2021 dice che è l'era dell'acquario. Repubblica, governo appeso a un filo. E poi due i commenti, uno di Francesco Bei, le incognite del salto nel buio, cioè l'eventuale crisi di governo, e poi un lungo approfondimento di Ilvo Diamanti che per Repubblica cura questi sondaggi, e il premier piace, virgola, nonostante tutto. E poi in prima pagina, lo avete sentito anche nel GR, gli ultimi aggiornamenti dall'Egitto sulle indagini sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo schiaffo dell'Egitto, indagine manipolata dai PM romani, questa è l'accusa che avete sentito anche nel GR, fanno i PM romani. L'articolo è di Carlo Bonini, sicuramente un pensiero va ai genitori di Giulio Regeni che da 4 anni ormai combattono per avere uno straccio di verità su quello che è successo a loro figlio. Pensate come si devono sentire, come si sono sentiti ieri quando sono arrivate queste dichiarazioni dal Cairo. Con la Repubblica, ne dicono anche il Venerdì, l'uomo dell'anno, sapete questa di scegliere appunto l'uomo dell'anno è una tradizione soprattutto del magazine americano Time, e per il Venerdì l'uomo dell'anno è Dante Alighieri. A 7 secoli dalla morte Dante sarà la stella del 2021, abbiamo ripercorso da Firenze a Ravenna il cammin della sua vita, scoprendo perché non è ancora finita. E poi, non facciamocelo mancare neanche in questo caso, l'oroscopo dei prossimi 12 mesi di Horus. La Stampa, contagi alti, non riaprite le scuole il 7, è un virgolettato perché La Stampa ha un'intervista a Walter Ricciardi che dice appunto la zona rossa resti almeno fino a metà gennaio, e poi per quanto riguarda il piano vaccini Ricciardi considera la partenza troppo lenta. Dalla prima pagina vi segnalo anche l'editoriale del direttore della Stampa Massimo Giannini, l'Italia sospesa tra la paura e la speranza. Poi una lettera del ministro Luigi Di Maio, voi direte sull'Egitto, no, sui profughi isolati in Bosnia, i migranti al gelo che noi europei non vediamo più. Quindi una lettera dopo che trovate poi, inizia in prima pagina e trovate il resto a pagina 21, dopo quella di ieri, sempre su questo tema, di Evelina Cristillin, presidente del Museo Egizio di Torino, e Luciana Littizzetto. Comica, pare. L'altra lettera invece è di Luigi Manconi, l'altra lettera dell'altro intervento, e questa sì è su Regeni. Regeni, ora basta, schiaffi dal Cairo e silenzi da Roma. Il Messaggero, vaccino, arrivano i benefit, il Colle, fiducia nella scienza. E qui naturalmente è un po' anche cercando di anticipare quello che potrebbe essere il contenuto del discorso che nel tardo pomeriggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e che qui su Radio 24 naturalmente verrà trasmesso, e poi subito dopo con uno speciale curato da Elisabetta Fiorito, è quello che potrebbe appunto dire rivolgendosi a Rete Unificate al nostro paese. Dalla prima pagina una notizia che a me piace sempre dire da mani sul volante, pensando a Alessandro Milan e a Leonardo Manera, ai quali naturalmente faccio tantissimi auguri. Torneranno dopo, in questi giorni, cioè il meglio di Uno Nessuno e 100.000, ma poi la trasmissione tornerà in onda in diretta il 7 gennaio. Ma appunto la notizia è questa: il concorso beffa al Ministero della Giustizia, vince l'anzianità. Per diventare funzionario del Ministero valgono di più gli anni di servizio che i titoli, con buona pace naturalmente di qualsiasi definizione di meritocrazia. Oggi vi segnalo anche la Gazzetta dello Sport, il titolo principale è Svecchia signora, naturalmente il riferimento è alla Juventus, quasi fatta per il baby Rovella che resta in prestito al Genoa, altro investimento per il futuro, quindi un po' di aggiornamenti sul calciomercato. Ma la Gazzetta dello Sport ve la segnalo anche perché è in edicola anche il settimanale della Gazzetta dello Sport, Sport Week, e in copertina c'è Papa Francesco, il pontefice più vicino di sempre al nostro mondo, il mondo dello sport. Ci consegna un'enciclica laica sullo sport in 7 concetti chiave: lealtà, impegno, sacrificio, inclusione, spirito di gruppo, ascesi e riscatto. E credo sia innegabile che lo sport, quello proprio dall'anima, quella che è anche alla base dei giochi olimpici, non prendo certo in prestito le parole che invece sentite dire a Dario Ricci qui nella sua trasmissione Olimpia, ma sempre quando si parla di sport, lo sport, quello più sano sicuramente, insegna secondo Papa Francesco i 7 valori sono questi, ma sono anche tanti altri. Il Giornale, resa finale, Conte sfida Renzi, naturalmente il riferimento è a quelle parole di Conte: non si fa avanti se c'è la sfiducia di un partito della coalizione, il riferimento ovviamente a Italia Viva di Renzi. In prima pagina anche un approfondimento sulla vicenda che riguarda Flavio Insinna, che è presentatore, il suo programma di punta è L'Eredità su Rai 1. Ha detto 2 giorni fa: la caccia non è uno sport, e scrive il Giornale, è finito impallinato, perché è stato molto criticato per queste dichiarazioni. Visto che abbiamo appena parlato di Ministero della Giustizia, cito un articolo del Giornale che poi trovate a pagina 10, che si intitola Dal ministro Bonafede a Giulia Grillo quando i 5 Stelle attaccavano la scienza, perché è venuto fuori una lettera firmata da Alfonso Bonafede, attuale, ripeto, ministro della Giustizia, del 2010. Bonafede aveva uno studio, lavorava in uno studio legale, e scriveva in un post sul blog il cosiddetto blog delle stelle: ciao Beppe, ciao Davide, sono Alfonso Bonafede del Meetup di Firenze. Sapete che all'inizio il Movimento 5 Stelle si organizzava con questi Meetup. E nel mio studio legale, sono un avvocato, abbiamo fatto una grande conquista di recente. Ci occupiamo dei danni da vaccinazione e dei danni da emotrasfusione infette. E dopo anni di tentativi, uno dei miei colleghi di studio è riuscito a far ottenere un indennizzo per un bambino autistico. Il giudice ha ritenuto che non si poteva escludere il vaccino come concausa dell'autismo e quindi ha riconosciuto l'indennizzo. Ci tengo a non dare alcuna falsa illusione, tuttavia si tratta di un precedente giurisprudenziale storico. Poi c'è il recapito telefonico, non esitare a chiamarmi in modo tale da capire se sia possibile fare qualcosa. Un caro saluto, Alfonso. In questi giorni in cui si cercano di sfatare tutte le bugie sui vaccini e nei giorni nei quali persone come Alberto Mantovani si sgolano a dire che non c'è un singolo studio scientifico pubblicato su questo pianeta che colleghi seriamente la vaccinazione a una qualsiasi forma dello spettro autistico, ecco, io Alfonso Bonafede almeno, non so, potrebbe dire effettivamente sì, errori di gioventù, sciocchezze da giovane avvocato. No, abbiamo il ministro della giustizia che appena 10 anni fa, agli albori del Movimento 5 Stelle, era impegnato in questa crociata per ottenere indennizzi per persone che avevano appunto questa convinzione che a causare l'autismo fossero stata la vaccinazione. E su questo ci fermiamo un attimo e ci ritroviamo tra qualche minuto. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti voi per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666, soprattutto WhatsApp, gli SMS si stanno lentamente estinguendo. Solo una citazione, l'ascoltatore che dice non c'entra che l'assassino sia un uomo, si tratta semplicemente di un assassino, quello di Aghe di Guita. E no, mi spiace, perché se, e lo dico perché sono donna, non sono, sono abbastanza magra, sono alta, aggiungo questa nota personale perché è veramente un tema che purtroppo come donna sento tantissimo, sono alta circa 1,70 m, se un uomo prendesse un martello della mia stessa corporatura e della mia stessa altezza, quasi certamente avrebbe la meglio. Viceversa, probabilmente io non riuscirei a colpirlo a morte. È quindi anche proprio una questione di possibilità fisica di usare violenza. E ripeto, nella stragrande maggioranza dei casi, se un uomo decide di fare male a una donna, può farlo. Ed è molto più difficile il contrario. E questo è alla base di tra l'altro lo sapete, è inutile che io lo ricordi, tantissimi femminicidi sono efferati. Sono proprio frutto di violenza fisica, gli omicidi vengono commessi anche con l'arma bianca, anzi senza, sì, anche all'arma bianca. Comunque, il manifesto, finale dannata, gennaio 2021 come l'agosto 2019, Conte sfida Renzi a un finale alla Salvini. Poi subito sotto la vicenda che riguarda l'Egitto, schiaffo di Sisi, processo senza basi. Libero, l'Inghilterra ci insegna, impariamo a stare al mondo, l'ente sanitario britannico autorizza l'antidoto anglo-italiano, quello europeo invece aspetta, non si sa bene cosa. In realtà le ragioni ci sono, perché credo che sia importante risolvere questa contraddizione, perché da una parte, ed è sacrosanto, si chiede che l'iter di approvazione di un vaccino sia quanto mai rigoroso, ne abbiamo parlato anche qui ieri col professor Remuzzi e con altri ospiti, e dall'altra però non si può chiedere una accelerazione. E è inutile ignorare, Libero tra l'altro con il suo direttore sta facendo una campagna a favore della vaccinazione, però è inutile ignorare che c'è anche un fattore politico molto importante nel Regno Unito in questo momento. Boris Johnson lo ha fatto con il suo ministro della salute Matt Hancock, è andato in Parlamento a dire che la Brexit, guardate com'è bella la Brexit, ci fa approvare i vaccini più in fretta, dimenticando completamente che quegli stessi vaccini, quello di Pfizer, BioNTech e questo di AstraZeneca con i ricercatori di Oxford, sono stati messi a punto con questa incredibile velocità anche grazie all'impegno dei fondi stanziati da Bruxelles. Comunque, a parte il titolo, ci sono poi due, c'è un intervento di Vittorio Feltri che ha letto un libro sulle difficoltà che sono legate a un indebitamento eccessivo delle persone, ma anche dei paesi naturalmente, in questo caso soprattutto delle persone. Se sei pieno di debiti ce la puoi fare, uscire dall'inferno. È un tema molto dibattuto in Italia, sapete che per esempio negli Stati Uniti si può dichiarare bancarotta anche come persona, si dichiara bancarotta, si volta pagina e se si riesce si ricomincia da zero. Qui, come sapete, una volta che si entra, per esempio, appunto si viene bollati come cattivi creditori, e da qui anche lo scontro che c'è in questo momento sulle nuove norme europee che entreranno in vigore il 1 gennaio e che causano gravi problemi per scoperti di 100 euro per le persone e di 500 per le aziende. Da qui appunto il tema dello stigma dell'avere dei debiti. Due, a proposito di uomini dell'anno, secondo Libero, uno è Rocco Casalino, che però per Filippo Facci è l'omino dell'anno e viene definito il badante del Premier. E invece Conte, solito pistolotto, articolo di Pietro Senaldi, condirettore di Libero, Conte parla per 2 ore senza dare risposte. Sull'articolo di Filippo Facci, come potete immaginare, molto duro su Casalino, trovata a pagina 6, subito sotto c'è un po' di cronaca di questa conferenza stampa di ieri. A me, come giornalista, non difendo assolutamente la categoria, però ovviamente mi fa molto effetto vedere eventuali quelle che io considero storture in come viene svolto il lavoro di giornalismo. Ecco, per me è stato impressionante vedere che ieri a fianco del Premier non c'era Casalino che dava la parola ai giornalisti, per fortuna, almeno per una volta, ma c'era il presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Verna, che è comunque secondo me è una contraddizione, perché faccia altro il presidente dell'Ordine dei giornalisti, ma il fatto stesso che debba essere presente a una conferenza stampa e che debba anche semmai giustificare, come ha dovuto fare con una domanda di una giornalista che, considerando di non aver avuto una risposta alla sua domanda, capita spesso con i politici italiani, ne fa un'altra e le viene risposto che non, dal presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Verna, che non sono previste 2 domande. Comunque questo aspetto, secondo me, comunque ci posso sorridere, ma solo per non piangere, lo trovate ben descritto a pagina 6 di Libero di oggi. Avvenire, si riparte, si spera. Il 2020 si chiude con un bilancio di 84.000 decessi oltre la media e il 2021 inizia con la fiducia nei vaccini non obbligatori ma fondamentali. La foto è dedicata a Giulio Regeni. L'Egitto chiude gli occhi. La Procura Generale ferma le indagini. La Farnesina ha risposto parole inaccettabili. Domani ha una specie di quartino che avvolge il giornale. Il titolo principale è Un anno di distanza, si conclude un anno di morte, di errore, di incertezza, di disperazione, di disuguaglianze, un anno che non avremmo mai voluto vivere, che invece dobbiamo capire e ricordare per tornare infine a sperare. Ma la prima pagina vera e propria, come sempre, 2 articoli, uno di Piero Ignazzi, politologo, la popolarità del Premier che i partiti non capiscono, e poi il Daniela Preziosi con la cronaca di questa conferenza stampa di fine anno, 3 ore, 40 domande e nessuna risposta. Conte svicola dalla crisi. La verità, i veri Novax sono Conte e Arcuri, sproloquiano di obbligo ma restano in ritardo su tutto. Poi una foto di Giuseppe Conte, Giuseppe ritenta, Giuseppe sapete che viene chiamato così per scherno, perché questo era... sapete che la E in inglese viene pronunciata I, e quindi quando Donald Trump fece le congratulazioni a Giuseppe Conte lo scrisse Giuseppi, perché così era, perché così veniva la traslitterazione a un americano, e da allora la verità continua a chiamarlo così, per scherno naturalmente, quello di storpiare i nomi per... Storpiare i nomi dell'avversario è una pratica abbastanza diffusa, non lo fa soltanto la verità naturalmente. Comunque Giuseppi ritenta il colpo sugli 007, caos giallo-rosso, perché sapete che oltre alla principale accusa che fa Italia Viva e Matteo Renzi a questo governo, cioè quello di essere in ritardo sul recovery plan, c'è quella diretta al Presidente del Consiglio di voler tenere per sé la delega ai servizi segreti, quindi anche di questo tema credo si tornerà a parlare. Il Foglio, in prima pagina un articolo del direttore Claudio Cerasa, quello al centro della pagina, elogio dei rider più flexi che chiusi. Chiusi, ricorderete, una definizione, è un aggettivo che significa essere così un po' schizzinosi, ecco, che venne usato in modo molto infelice per descrivere i giovani di oggi, e invece secondo Claudio Cerasa i rider sono più flexi che chiusi, altro che nuovi schiavi, sono tra le figure professionali simbolo del 2020, una generazione di ragazzi che si è messa in gioco. Per tutelarli occorre aiutare chi li assume ad adattarsi con intelligenza e coraggio a un mondo che cambia. Anche il Foglio oggi chiama Giuseppe Conte Giuseppi. Lo fa il fondatore del Foglio, Giuliano Ferrara, capodanno in casa Giuseppi. E poi invece un approfondimento che trovo molto interessante su quello che sta succedendo in Israele, dove la campagna di vaccinazioni funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'adesione è altissima. Pensate che qualche numero, la priorità viene data al personale sanitario, alla popolazione con più di 60 anni, e l'obiettivo fissato dal premier Benjamin Netanyahu, che lo ricordiamo è anche protagonista sul fronte politico, perché Israele per la quarta volta in due anni andrà a elezioni anticipate. Israele è la crisi in Israele politica, la crisi del governo è ormai una realtà. Bisogna solo fissare la data delle elezioni anticipate, ma, e quindi naturalmente in questo momento il premier è ancora Benjamin Netanyahu, dice il suo obiettivo è raggiungere 150.000 immunizzazioni al giorno, così da avere per la fine di gennaio almeno un quarto della popolazione già vaccinata, circa 2,25 milioni di israeliani su un totale di 9,2 milioni di abitanti. Questo è interessante, al di là appunto di questo tema del aprire una crisi di governo e andare a elezioni anticipate durante la pandemia, è perché, come ci diceva anche ieri il professor Remuzzi, è molto interessante, sarà vedere quanto dura l'immunità garantita dal vaccino, perché l'immunità garantita dal vaccino sia una certezza, ok, però siccome appunto siamo in un campo nuovo, quello di questo tipo di vaccini per virus a mRNA messaggero, RNA quindi messaggero, bisogna vedere quanto dura questa immunità. Questo si può sapere naturalmente soltanto osservando chi è già stato vaccinato. Il fatto che in Israele ci siano già questi numeri può essere interessante per la ricerca globale, perché lo ricordiamo sempre, se c'è una cosa forse positiva di questa messa a punto del vaccino è che è stata possibile anche grazie al fatto che tanti ricercatori di tutto il mondo si sono uniti, si sono messi insieme e hanno condiviso alcuni dati. Torniamo sulle pagine interne, su quelle del Sole 24 Ore, naturalmente torneremo con il direttore Fabio Tamburini. Invece dalla Repubblica una bella storia raccontata da Giusy Fasano a pagina 27, la donna dietro Wikipedia. È Yolanda Pensa, è nata a Ginevra ma è cresciuta sul lago di Como, ha due figli di 11 e 12 anni, laureata in lettere con indirizzo storia dell'arte, ha anche due dottorati, uno in antropologia sociale e uno in urbanistica, ottenuti rispettivamente a Parigi e a Milano, ed è da volontaria diventata presidente di Wikimedia Italia. Dice: ho iniziato nel 2006 correggendo una voce sull'arte africana. Siamo un team di 328 persone, il sapere è la nostra missione. L'approfondimento sull'accordo tra Bruxelles e Cina, l'accordo abbiamo detto è una specie di quadro che andrà poi, l'interno andrà dipinto, o insomma questa intesa andrà scolpita nei dettagli, però intanto l'approfondimento di Francesca Basso, e poi un'intervista a Ivan Scalfarotto, che è esponente di Italia Viva ma è anche sottosegretario agli esteri, che dice: ignorata l'Italia, la presenza di Macron inopportuna, perché sicuramente, come abbiamo detto in questa foto, oltre al presidente della Cina Xi Jinping e ai due esponenti, presidenti del Consiglio europeo Michel e della Commissione von der Leyen, c'erano Macron e Merkel. L'approfondimento su Giulio Regeni lo trovate a pagina 17, su Regeni nessuna prova, dall'Egitto schiaffo all'Italia, pagina 17 della Repubblica, la Procura Generale attacca i magistrati di Roma e nega ogni possibile collaborazione, i dubbi sull'attività di Giulio era sospetto. e lo ricordiamo ancora una volta, sono passati quasi, in realtà prima ho detto 4 anni, ma sono quasi 5, perché Giulio Regeni scomparve il 25 gennaio del 2016 al Cairo, e poi il suo cadavere fu ritrovato, e purtroppo nelle ultime settimane abbiamo anche saputo di quante torture ha subito prima di essere assassinato. Ci lasciamo ora un attimo per un aggiornamento sulla viabilità e subito dopo ci ritroveremo con il direttore Fabio Tamburini a commentare il Sole 24 Ore e non solo, appunto in questa vigilia di fine anno. Eccoci di nuovo per quest'ultimo blocco e buongiorno Fabio, appuntamento del giovedì che assolutamente ho voluto rispettare, appuntamento del giovedì di 24 mattino con il direttore del Sole 24 Ore e di Radio 24, Fabio Tamburini. Ho naturalmente spiegato che sulla prima pagina il titolo principale riguarda la manovra, poi domani i quotidiani non ci sono, ma quando torniamo tutti in edicola sabato ci sarà la seconda parte di questo approfondimento. Intanto, insomma, non che il titolo non sia chiaro di per sé, però un tuo commento su appunto questa manovra approvata in fretta e furia, lo sappiamo, in tempi mai così stretti, come denunciato anche dal presidente del Senato Casellati, e perché bisognava scongiurare l'esercizio provvisorio se appunto non fosse arrivata l'approvazione anche del Senato. Il titolo, lo ricordo, del Sole 24 Ore è La manovra dei mille bonus e legge, e poi tutte le novità. Quindi c'è un'impresa ardua, però se vuoi provare a riassumerla e appunto commentare questa manovra 2020. Riassumerla è difficile perché è la manovra dai mille bonus, insomma, in sintesi è come se avesse fatto un altro giro Babbo Natale, è arrivato un po' tardi quest'anno rispetto al 25 dicembre, la data tradizionale, però alla fine è arrivato, ha portato tanti doni, tanti ricchi doni un po' dappertutto, sparsi a pioggia, e direi che questo autorizza una considerazione dove gli ha preso questi bonus Babbo Natale, perché questi interventi costano, il debito italiano è ormai sempre più fuori controllo, ci siamo praticamente già fumati una parte significativa dei fondi europei, e prima che arrivino. Certo. Perché questo, che a un certo punto si tirerà una riga e scopriremo che questi bonus a pioggia hanno una copertura che lascia molto a desiderare, perché non sarà un bel momento. Certo, cioè ricordiamolo sempre, noi credo che gli ascoltatori di Radio 24 abbiano molti strumenti, forse anche più rispetto ad altri, per capire questo, però ricordiamolo sempre, perché quando sento invocare giustamente, noi li abbiamo chiamati ristori, insomma aiuti per tutte le persone che hanno avuto più conseguenze negative economiche e sociali da questa pandemia, lo Stato deve fare di più. Però lo sappiamo, abbiamo già varato due scostamenti di bilancio, siamo arrivati a questa pandemia con dei conti pubblici già disastrati, quindi questo tema non è né per criticare il tentativo di aiutare chi è in difficoltà, è solo per ricordare che tutto questo, come diceva Fabio Tamburini, ha un costo, ha un peso sui conti pubblici. Per però entrare per esempio un po' nel dettaglio, in questa legge di bilancio, io l'ho chiamata 2020, ma naturalmente è come se fosse il budget del nostro Stato per il 2021, ci sono queste coperture della SACE fino al 70% per i mini bond, perché ricordiamolo sempre, insomma, le nostre aziende hanno bisogno di guardare al 2021 come l'anno in cui potranno tornare a andare all'estero. È stato un anno bloccato, niente fiere, pochissimi viaggi, quindi questo tema delle garanzie della SACE, che dovrebbe appunto anche aiutare le aziende ad andare all'estero, è importante. Quindi non stiamo bocciando la manovra tout court, però appunto bisognerebbe sempre inserire delle misure che guardano al futuro più che solo tamponare, che sicuramente è necessario, però appunto per definizione è una cosa che ha una mancanza di visione di medio-lungo termine. Siamo qui sempre che aspettiamo quanto è necessario per poi questi fondi europei acchiapparli. E qui mi pare che siamo dietro. Tra l'altro, appunto, speriamo che ci sia un'accelerata. Certo, anche perché, e da qui cito anche appunto l'intervista di Emilia Patta che trovate a pagina 9 del Sole 24 Ore, parlavamo di questo recovery plan che, d'accordo, le voci critiche dicono vabbè, ma perché premete, c'è tempo fino a febbraio. Sì, ma non si può arrivare la notte prima della scadenza imposta dall'Unione Europea a dire eccolo qua. È chiaro che prima si fa meglio è. E quindi da qui anche il titolo scelto da Emilia, scelto per l'intervista di Emilia Patta all'intervista di Renzi: meglio andare all'opposizione che accettare questo recovery. Quindi sembra che Matteo Renzi sia ancora, insomma, che speri eventualmente di non causare la crisi se questo recovery cambierà. Ecco, su questo famoso recovery plan e recovery fund, tu Fabio, che impressione hai? Ci sarà spazio per appunto una nuova bozza di questo recovery plan che tra l'altro in teoria c'è, sono 153 pagine con un cronoprogramma dei singoli interventi per divisi in sei missioni. Secondo te è comunque un miglioramento? Cioè si sta migliorando questa messa a punto del recovery plan? Bisognerà vederlo, analizzarlo con attenzione. Queste operazioni non sono il nostro forte come italiani. Abbiamo una storia di utilizzo dei fondi europei molto deludente per noi. I fondi europei ci sono, ma l'Italia li utilizza soltanto in una parte inferiore, significativamente inferiore di quanto potrebbe. Speriamo anche per i fondi del recovery. Sì, perché purtroppo appunto certo abbiamo una... Occorre una macchina organizzativa che noi non abbiamo. E qui oltre da non la beffa, perché i fondi europei ci sono, noi come sistema Italia, come paese Italia, contribuiamo a pagarli ed è un contributo davvero significativo, e poi dopo francesi, tedeschi li utilizzano al 100%, invece no. Certo. Speriamo alla fine anche così per quest'altro. Senti, sempre guardando un po' il 2020, un altro approfondimento di oggi di Maximiliano Cellino a pagina 6, sul rimbalzo borse dal crollo al rimbalzo record, perché lo ricordiamo tutti, all'inizio della pandemia le borse reagirono male, ancora oggi ogni tanto quando ci sono le notizie che arrivano appunto dal mondo reale, l'approvazione di un vaccino o viceversa la bocciatura o le difficoltà, le borse reagiscono, però intanto il bilancio dice questo, che è stato l'anno di Wall Street. Rally del Nasdaq più 44% con i titoli tech, bene l'Asia e gli emergenti, in Europa in realtà positiva solo Francoforte, Piazza Affari, la nostra borsa, meno 5,4%, limita i danni, spread in area 100 punti. Naturalmente il tema dello spread, la differenza con la quale ci indebitiamo rispetto ai tedeschi, è legata al tema del nostro debito pubblico monster. Ecco, su questo tu, non so, ti senti di fare, tra l'altro su Plus 24 di sabato ci saranno anche i consigli per investire nel 2021, parlando in particolare con i gestori dei fondi, però ecco, tu ti senti di fare una previsione per il 2021? Beh, per quanto riguarda i mercati azionari, le borse, il 2020 verrà ricordato come un anno eccezionalmente positivo, e anche le borse europee hanno recuperato tantissimo, compreso quella italiana. Adesso la domanda a cui rispondere è: che cosa accadrà nel 2021? Hai fatto molto bene a ricordare la copertina di Plus, il settimanale sul risparmio del Sole 24 Ore, perché nel numero di sabato prossimo abbiamo chiamato gli analisti, gli esperti del settore, a dirci quali sono le loro previsioni per l'anno prossimo, che cosa conviene fare. Tradizionalmente i mercati finanziari anticipano di un semestre quello che accade nell'economia reale. Questo autorizza a pensare il 2021, l'anno prossimo, come un anno positivo per l'economia reale, per l'economia delle imprese, per tutti noi. Quindi incrociamo le dita, è sempre così, questo anticipo da parte dei mercati finanziari di quello che succede nell'economia reale non ha finora mai trovato smentite. Incrociamo le dita, certo, perché certamente ne abbiamo tutti bisogno. Tra l'altro, sempre sul Sole di oggi, la prima pagina di Finanze e Mercati, c'è un'intervista a Raffaele Gerusalmi, che è l'amministratore delegato di Borsa Italiana dall'aprile del 2010, quindi insomma ne ha viste di cose succedere in questi 10 anni, e l'intervista di Antonella Olivieri: Borsa Spa non può restare sola, arriva la sfida dei giganti tech, che abbiamo visto sono quelli che hanno trainato il Nasdaq negli Stati Uniti. Closing con Euronext entro metà 2021, fondamentale essere parte di un insieme. Fabio, ti ringrazio. Facciamo naturalmente, ti do la parola per fare gli auguri ai lettori, agli ascoltatori, in generale a tutti. Io faccio gli auguri a te, noi ci risentiremo, ci rivedremo naturalmente con il nuovo anno. La parola appunto per chiudere questa prima parte di 24 mattina al nostro direttore Fabio Tamburini. È stato un anno difficile, direi finalmente finito. Una parola insieme agli auguri per ricordare tutti quelli che non ci sono più e le loro famiglie. Sono davvero un numero significativo, è andata così, speriamo in un anno migliore, auguri a tutti e un ricordo per tutti. Grazie Fabio, noi invece ci risentiamo dopo il GR delle 8.